droga. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Andare al lavoro in bicicletta ed essere pagati per questo succede in Francia e in altri paesi. E gli italiani che cosa ne pensano? È comodo, uno fa ginnastica, risparmi la benzina, il parcheggio. Innanzitutto aggiustare le strade che non funzionano, ci sono già piene di buche. Poi passare alle ciclabili. Se vivesse in città andrebbe al lavoro in bicicletta? Sì, sì, ci andrei. Perché? Perché intanto uno si mantiene in allenamento. E poi... Andare al lavoro in bicicletta potrebbe essere conveniente per qualcuno. In Francia è iniziata proprio in questi giorni una sperimentazione voluta fortemente sia dal ministro francese dell'ecologia, Ségolène Royal, ma anche dal ministro dei trasporti, Frédéric Cuvillier, che hanno deciso insieme che bisogna dare una ripulita comunque alle strade francesi. Quindi i lavoratori francesi che andranno al lavoro in bicicletta riceveranno 25 centesimi ogni chilometro. Lo paga naturalmente il datore di lavoro, che però viene ricompensato e rimborsato dallo Stato sotto forma di sgravi fiscali. Beh, voi direte una stupidaggine, mica tanto, abbiamo fatto un conto, pensate che mediamente un giorno si fanno 8 chilometri per andare a lavorare, più o meno di media facciamo 8 chilometri, perché poi sono quelli che si fanno andare e tornare, per 250 giorni fanno 500 euro l'anno. Allora per 80 euro se mossa l'Italia, per 500 euro l'anno non sarebbe male. Dice, ma qual è il prezzo andare in bicicletta e come faccio ad andare in bicicletta? Beh, intanto Roma è una città piena di scooter, chi va in scooter deve prendere la bicicletta, sono anche le biciclette con la pedalata assistita elettrica, e tutti mi fanno segno dietro il vetro, ma che sei matto, in bicicletta, cioè beh, tu nonno, mica ha detto che sia obbligo, dico che però è un'idea incentivare la bicicletta, il trasporto diciamo non ingombrante e sostenibile con sistemi concreti. Io l'altra sera sono andato a mangiarmi una pizza in un locale a Piazza Cavour. Fuori c'era un cartello che ho scritto 10% di sconto a chi arriva qui in bicicletta. E ho rimpianto, visto che non era lontano da casa mia, dico, vedi, se invece che venire in autobus venivo in bicicletta, c'avevo il 10% di sconto. Quante situazioni simili secondo voi sono attuabili nel nostro paese? Al di là delle grandi politiche, si è parlato tantissimo di piani, di piste ciclabili, ma in Francia se lasci l'automobile parcheggiata su una pista ciclabile ti fanno una multa a levarti il pelo. Qui diciamo sono considerati parcheggi plausibili anche le rampe per i disabili, figuriamoci le piste ciclabili quanto sono osservate. Beh, oggi la domanda è proprio questa, vorrei che all'800240024 in qualche maniera mi deste l'idea o mi deste dei suggerimenti o mi avanzasse la vostra proposta di aiutare a migliorare il traffico nelle nostre città dando questo incentivo. Per ora in Francia è soltanto a base volontaria, è partita una sperimentazione a base volontaria, che però non è che costa, si prevede che avrà un costo di 110 milioni di euro, che però dice, saranno ripagati comunque da la diminuzione di malessere e di affluenza negli ospedali, quindi costerà meno la spesa pubblica per la sanità. Voi lo fareste? Voi sareste d'accordo di andare a lavorare in bicicletta per avere 25 centesimi ogni chilometro? Poi non si trucca e non è che potete truccare il contachilometri, sarà stabilito quello che è il percorso che fate, poi fatti i vostri, se fate il giro lungo è la stessa cosa, sempre 25 centesimi e sempre i chilometri sono quelli. 800240024. Benzina, macchine, tutti da soli in macchina, raccordo pieno, tangenziale piena, sarebbe impossibile. In Francia l'uso delle biciclette è incentivato, addirittura pagano 25 centesimi per ogni chilometro percorso ai dipendenti, che cosa ne pensa? E penso che è un'ottima iniziativa, io per esempio sono un imprenditore e opero in Polonia e questo fenomeno è anche in grande crescita, tutti vanno. Le interviste sono prese online da UDEM, che ha cominciato a chiedere a delle persone, quello che vogliamo fare noi questa mattina, se sono disponibili a fare questo tipo di sacrificio. Poi un sacrificio non è, sarebbe più divertente se tutti si va in bicicletta, non soltanto come accade quando nella mega industria di Fantozzi arriva un capo appassionato di ciclismo, no? Tutti vanno in bicicletta improvvisamente dicendo ci facciamo una sgambata, andiamo a farci una, e poi nascondono le biciclette dietro l'angolo e tutti si prendono le automobili, ma soltanto per compiacere il capo. In questo caso lo fate perché avete un piccolo utile, poi se tutti vanno in bicicletta si cammina meglio. E abbiamo il nostro primo ospite, Giuseppe Piras, buongiorno. Buongiorno. È presidente di FIAB Torino Bike Pride, è la federazione italiana amici della bicicletta. Come la vede questa iniziativa? Secondo lei, tanto per sfatare ogni nostra illusione, sarebbe applicabile in Italia? Assolutamente sì, sono già tantissime le persone in Italia che stanno scegliendo la bicicletta per spostarsi, per andare al lavoro. Basterebbe togliere alcuni vincoli che rendono ancora la bicicletta uno strumento di spostamento di serie B. Un esempio su tutti: l'infortunio in itinere per chi si reca a lavoro in bicicletta non è previsto, mentre è previsto per chi va in macchina. Quindi un lavoratore, se io vengo a lavorare in bicicletta e mi schianto, l'assicurazione non mi paga, ma se vado in macchina sì. Esatto, perché non è considerato il mezzo principale per spostarsi. Beh, è un'incongruenza totale. Da quando in qua, da quando il nostro paese di ladri di biciclette è passato a questa idea che per forza bisogna andare a lavorare in macchina tutti? Nello stesso modo, anche banalmente, in qualsiasi ufficio pubblico noi abbiamo dei parcheggi interni per i dirigenti, per i lavoratori, nell'università. È molto più raro trovare delle rastrelliere, che sarebbe un incentivo che costa molto meno, occupa meno spazio e darebbe molta più possibilità alle persone di trovare un luogo dove ricoverare la bicicletta. Non me lo dica, abbiamo dovuto fare riunioni condominiali col macete in mano per mettere due rastrellieri in un cortile interno che non danno fastidio a nessuno. Si erano alzati degli scudi possibile. Terribili. A Roma non è ancora possibile, a Torino per esempio è obbligo per i condomini avere uno spazio dedicato alle biciclette, quindi insomma si può fare, basterebbe soltanto cominciare a ragionare nell'ottica in cui la bicicletta è uno strumento per spostarsi valido quanto gli altri, anzi come dimostra la politica francese forse più valido. Ecco, ma il passo fondamentale è proprio questo, c'è un'azione governativa e si incide sui soldi, non è soltanto vai in bicicletta perché sei bravo, sei ecologico, perché uno poi viene preso in giro dal resto del mondo, cioè guarda quel cretino va in bicicletta perché lui magari, che ne so, è un ecologista, è di sinistra, non lo so, le banalità che si possono dire su questa cosa qua. Comunque chi va in bicicletta è considerato un cretino rispetto a chi comodamente va in macchina, che in effetti è assolutamente più comodo se uno avesse un parcheggio sotto il lavoro, un parcheggio sotto casa sempre presidiato, ma non è così. Comunque sia, andare in bicicletta richiede uno sforzo, richiede una maggiore esposizione fisica, ma se sono tante le persone ad andare in bicicletta si allevia anche il rischio. Quali sono le barriere di tipo ideologico per cui secondo lei ancora l'Italia considera chi va in bicicletta una persona da guardare come minimo con sospetto, un antico retaggio per cui ci ricorda la miseria degli anni passati? Sì, può essere un po' forse quello, un po' molti casi di invidia. Chi non ancora ha fatto il salto prova un senso di fastidio a vedersi sorpassato da chi va in bicicletta mentre è in coda fermo al semaforo piuttosto che sul raccordo. E dalla moto no, non si sente in fastidio se è un motorino? Sul motorino probabilmente no, perché alla fine rimane sempre come dire, una categoria più vicina che romba. La bicicletta è vista sempre ancora come un oggetto un po' strano, no? Non fa rumore, non dà fastidio, eppure io ho speso tanti soldi per avere una bella macchina e guarda qualcuno con una bicicletta da 30 euro mi fa fesso. Allora, fermiamoci un attimo Giuseppe Piras, perché ancora siccome non andiamo tutti in bicicletta, c'è chi va in automobile, dobbiamo dare il traffico. Melog, cronache meridiane. Se vi dessero 25 centesimi a chilometro, ci andreste a lavorare in bicicletta? Elio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, altro che 25 centesimi. Sono stato responsabile di una struttura sanitaria per parecchi anni e sono sempre andato a lavorare in bicicletta. Però gratis. Gratis ovviamente, ma non soltanto, è per questo che telefono, volevo un aggiornamento magari legislativo sulla situazione. Mi è stato fatto notare quando andavo in bicicletta, che tra l'altro lo trovo un mezzo stupendo per muoversi, mi è stato fatto notare che non avrei avuto il riconoscimento dell'incidente. L'ha appena detto il nostro ospite, Giuseppe Piras. Esattamente, Pires. Cioè voglio dire, come mai l'INAIL non riconosce durante il percorso una causa di invalidità in caso di incidente, mentre lo riconosce chi va in motorino e chi va in moto? Cioè queste qui non, vede che le barriere non sono soltanto ideologiche, culturali, e ci sono anche quelle, ma sono proprio anche normativo-legislative. Cioè un incidente in bicicletta in itinere non è considerato tale dall'INAIL, e se, che invece considera quella cosa assolutamente incidente in itinere se, se è fatta in macchina, se è fatta, se è fatta, come dire. Sì, questo, questa è una cosa è molto enigmatica, la domanda, cioè questo tipo di questione. Perché? Perché da un certo punto di vista i sindaci, le amministrazioni, le persone ben pensanti incentivano e parlano continuamente, soprattutto in campagna elettorale, che renderanno le città vivibili. In realtà nessuno pensa c'è questa norma, che io sospetto che sia una norma in realtà salvaguardia le assicurazioni, perché è chiaro, se c'è traffico, se le città sono incasinate, chi va in bicicletta rischia molto di più di chi va in automobile. Io parlo dell'INAIL, però, dell'Istituto Nazionale, che riconosce in itinere ogni incidente, in itinere naturalmente nel percorso casa-lavoro in orari congrui. Come mai il motorino, se una macchina mi urta e mi fa cadere, mi viene riconosciuto l'indennità di infortunio, mentre invece se mi fa cadere sono in bicicletta no? Soltanto se sei sulle piste ciclabili, mi dissero una volta. Puoi immaginare quante piste ciclabili ci sono. Quindi, poi sulle piste ciclabili in realtà farsi male è molto difficile, perché sono solo ciclisti, posso succedere tutto. Sentiamo un attimo Valentino, così entriamo più nel problema, che mi sembra già abbiamo trovato una deriva che insospettata. Valentino, buongiorno. Sì, buongiorno. Racconti. Io chiamo da Ferrara e volevo città di bicicletta, ci si può andare tranquillamente a Ferrara. Sì, abbastanza, ci sono molte piste ciclabili, però in realtà il problema non tutta era in piano Ferrara. Com'è? È tutta in piano, tutti vanno in bicicletta. Sì, è comodissimo, io ho sempre usato la bicicletta fin da giovane. Il problema è che le fregano con il camion a centinaia di notte. È vero, questo è un altro problema, sì, è vero. Però io volevo portare un'altra questione che ho sentito già dalle persone che hanno chiamato un attimo fa, riguardo quella dell'INAIL, nel senso che io mi recavo da casa al posto di lavoro per un chilometraggio di circa 16 chilometri per andare e 16 per tornare, mi recavo sempre in bicicletta per comodità, per avere una vita più salutare. Avrebbe risparmiato 1000 euro all'anno in questo caso, se sì, ci fosse. Però guardi, non era questione di soldi, cioè, a parte il fatto che usando i mezzi pubblici. Se avessimo una legge francese, 1000 euro all'anno abbiamo fatto. Non era male, non sarebbe stato male. Il problema è che io avrei dovuto usare i mezzi pubblici e impiegandoci circa 2 ore di percorrenza, perché avrei dovuto fare un cambio. Quindi lei ha avuto questo incidente in bicicletta? Ho avuto un incidente e l'INAIL, l'abbiamo fatto anche causa attraverso un'associazione di categoria, ma l'INAIL alla fine ha detto no, noi non ti possiamo pagare perché tu avresti dovuto usare i mezzi pubblici. Considerando che in bicicletta io ci impiego dai 30 ai 40 minuti, perché poi si attraversa la città, si fanno dei percorsi alternativi, eccetera. Con i mezzi pubblici invece avrei dovuto rimanere sull'autobus per circa un paio d'ore, dall'ora e mezza alle 2 ore, a seconda poi della fascia oraria, perché poi si considera anche che... No, ma è chiaro che prima di arrivare a una proposta come quella francese ci sono dei paletti da aggirare o da scalzare. Giuseppe Piras, ricordo, presidente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Questo sembra che un punto non indifferente, il fatto che alla fine sì, andare a lavorare in bicicletta, ma se poi non viene riconosciuto il danno di un incidente è un rischio doppio. Sì, è un rischio. In realtà appunto si potrebbe già intervenire sulla sicurezza delle strade praticamente da subito. Si è parlato di piste ciclabili, ma in realtà c'è un grosso tema che in Francia hanno già affrontato e Parigi sta spingendo tantissimo, che è quello della moderazione della velocità. Adesso, proprio oggi, parte una campagna di FIAB che chiede al governo di introdurre il limite dei 30 km orari, appoggiata da tutte le associazioni e i gruppi di ciclisti italiani, nei centri urbani. Quindi la regola dovrebbe essere 30 e l'eccezione su alcuni grossi viali, sulle vie di scorrimento veloce, i 50 o addirittura i 70. Però lei sa meglio di me, io lo posso dire sempre per l'esperienza romana, poi lei porta la sua esperienza e chi telefona dalla sua città. A Roma esistono in molte strade di accesso alla città, ma anche le strade che dallo stadio vanno verso la città, il limite 30 km. Io provo molte volte a essere ligio, anche perché so che c'è l'autovelox nascosto spesso, da dietro mi chiamano, mi fanno le corna, mi mostrano il dito medio, cioè mi passo per un povero umarelle rincoglionito di quelli che guidano col cappello, quando in realtà sono ligio alla legge. Sì, bisogna scegliere, appunto, fare una pianificazione della viabilità che sia chiaramente corretta, ma immaginare che nel centro di Roma, dove le strade sono larghe spesso poco più di 2 metri, il limite sia 50 all'ora è paradossale, perché raramente si possono raggiungere quelle velocità da una parte, e il rischio comunque di incidenti o di prendere sotto un pedone un ciclista è altissimo. Quindi nelle zone residenziali, nelle zone centrali che sono state costruite non per andare in auto chiaramente, ma per muoversi diversamente, il limite dei 30 sarebbe assolutamente adeguato. Poi si sposta la mobilità automobilistica su altre strade che sono strade, come dire, fatte apposta, in cui si separa anche il flusso dei ciclisti da quello degli automobilisti e quindi si mettono in sicurezza tutte e due le categorie. Questo potrebbe essere un intervento che quasi tutte le città italiane potrebbero fare da subito. Quindi a scalare, diciamo, la prima cosa da fare sarebbe da mettere dei limiti di velocità nelle città. Secondo, fare questo ragionamento con l'INEL sul riconoscimento dell'infortunio in bicicletta. E terzo, poi magari proporre l'incentivo a chi usa la bicicletta. Per chi mi scrive dice che in realtà 30 km sono pochi, ma quando si cammina a piedi quanto si farà? 4 km all'ora? Ecco, provate distrattamente ad andare a sbattere la faccia su un palo di ferro mentre camminate a piedi, quanto vi fate male? Ecco, e quelli sono 4 km all'ora, moltiplicatelo per 10, immaginate quanto fa male prendersi una botta anche soltanto a 30-40 km all'ora. Ci fermiamo un istante. Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Tu ci vai in bici, no, Fiore, te ne fotte niente. Oh, beh, lo sai che la bicicletta era considerata da Giolitti uno strumento pericoloso. Vabbè, al tempo andavano a piedi, grazie. La voleva proibire anche perché era considerata antiestetica, era una cosa brutta. Rispetto al cavallo? Rispetto al cavallo, all'eleganza del passo marziale. L'uddista, l'uddista. No, manco lo sapevo. Sono in 800 24 00 24. Scusate, sto in qualche maniera purtroppo subendo il fatto che Buttafuoco non ha un ufficio e quindi staziona perennemente, dormendoci anche con un sacco a pelo, in questo studio, e per questa ora attualmente è in cogestione, usando un termine forse a lui caro, che però in questo momento è fuori campo. Roberto, buongiorno. Roberto, a tutti quelli che comunque riescono a fare a meno dell'auto, cioè se uno si associa con un altro che ha la macchina e quindi al posto di avere carpooling, sola, però qua in Italia come si può fare? Poi ci sono i taxisti che fanno causa di qua e di là, cioè è tutto più difficile. Cioè dice lei, dice 25 centesimi andrebbero dati a tutti quelli che in qualche maniera fanno tutti risparmiare. Quelli. Per forza, cioè se la bicicletta sembra fatta apposta per una compagnia assicurativa, così poi avrà 5 milioni, no 5 milioni no, un sacco di assicurati, perché poi comunque sia, cioè tutti quelli. Aspetti, che a proposito delle compagnie assicurative, devo rispondere a un ascoltatore che mi scrive un sms, Paolo, gentilissimo. Come al solito non capisci un cazzo, non c'entra l'assicurazione, è una questione di infortunio sul lavoro. Paolo, tranquillo, sì, può essere, l'INAIL si occupa di infortuni sul lavoro, avevo detto assicurazione, ma c'è anche un approccio più cortese, più garbato. Ha dei problemi, sei già così arrabbiato a mezzogiorno, come al solito non capisci un cazzo. Sì, posso dare per buono il fatto che non capisca molto, ma sono qui per capire, stia tranquillo. Il fatto che lei scrive un sms non è che la tiene fuori dal fatto, potrei chiamarla, ho il suo numero di telefono davanti, potrei chiamarla in diretta e anche chiederle spiegazione, perché lei dice come al solito non capisce un cazzo. Solo per questo, non so cosa faccia lei nella vita, ma non lo dico con livore, lo dico che mi piacciono le persone tranquille, serene, anche nel loro desiderio di invettiva, di essere oppositivi rispetto a un conduttore radiofonico. Scusi, riprendo con Roberto. Sì, poi un'altra cosa, cioè i francesi hanno elettricità veramente da buttare via, che non sanno più cosa farne per la crisi, un po' perché hanno centrali sparse che... Allora, se i 25 centesimi alla fine dell'anno si comprano una bella bicicletta elettrica, no? E tutti vanno con quella, punto e basta. E i 25 centesimi servono per pagarsi la bici elettrica. Quindi lei, secondo lei, soltanto è un'operazione demagogica della Ségolène Royal? No, va studiata meglio, però dai. Cioè, però intanto ci stanno provando, intanto stanno provando. Allora, sentiamo Daniele Iari, buongiorno. Daniele Iari c'è? Sì, sì, eccomi, buongiorno. Ha fondato il Libero Ateneo del Ciclismo Urbano, l'ACU, che è un attivista del movimento Salva Ciclisti di Roma. Ha creato il Libero Ateneo del Ciclismo Urbano e quindi lei probabilmente Roma, la città che doveva essere un faro rispetto al resto del mondo per il ciclismo. Abbiamo un sindaco che quando non va in aereo va in bicicletta, ma sono cambiate le cose? Assolutamente no. Ecco. Poveraccio Marino, cioè sembra che ormai veramente ma non... prende solo schiaffi. Sì, però lui va in bicicletta, ma con sei vigili attorno, con 20 macchine dietro l'angolo che lo ricaricano subito appena finito il passaggio davanti ai fotografi. Però prego, andiamo avanti. Allora, il problema, diciamo, non è tanto del sindaco, è un problema proprio culturale al cambiamento. Io nel discorso mi riallaccio ai colleghi in precedenza dell'INAIL, lei cercava una risposta, Nicoletti, io gliela do. L'INAIL applica tabelle attuariali e quindi se la bicicletta non ha un sistema di tutele quando attraversa la strada, quando vengono realizzate le infrastrutture stradali, naturalmente risulta essere un mezzo pericoloso. Ad una tabella attuariale risulta un mezzo non adeguato e quindi l'INAIL dice ok, questo non ti pago perché potevi avere delle soluzioni. Mi tolgo una curiosità, scusi, visto che lei è molto informato, vale anche per le assicurazioni? Lo stesso, è molto complicato per un ciclista farsi un'assicurazione. Quindi, come vede, il Paolo che mi dice che non capisco un cazzo, in realtà non è che avessi detto le cose del tutto banali, no. Dicendo che c'era un problema anche di assicurazione. No, guardi, io le faccio un esempio banalissimo. In Italia ci sono molte società di bike messenger, cioè di coloro che consegnano la posta in bicicletta, che non riescono a trovare delle compagnie assicurative disposte ad assumersi il rischio di ricoprirli durante la loro normale attività lavorativa, consegna di posta in bicicletta. Quindi è ancora più. Io più approfondisco questo problema che era partito da una facezia, una notizia, le tipiche notizie che poi non cambia nulla perché leggiamo due ministri lanciano questa cosa, tutti in bicicletta, mettono un po' di soldi, i volontari via dicendo. In realtà ci rendiamo conto che la possibilità di migliorare la vita nelle città è molto difficile, ci sono delle barriere ideologiche e il vero problema, mi sembra di capire, mi corregga se sbaglio, è che non si riesce a capire qual è il primo passo. Le città sono insicure, nessuno mette in sicurezza le città per far circolare i ciclisti. Le leggi, le normative, le garanzie di chi circola naturalmente tengono conto delle strade insicure, rendono la vita difficile ai ciclisti. Quindi non si sa da dove si debba cominciare o voi lo sapete? Allora guardi, io voglio essere brutale, Nicoletti, oggi no, brutale. Mi tolgo un po' di peli da... Secondo me il problema è di natura economica. Peli sulla lingua, sì, si tolga pure, certo, è un inconveniente, capita. Secondo me il problema è di natura economica. La bicicletta ad oggi non ha ancora un indotto economico che giustifica da parte delle amministrazioni locali un interesse. Realizzare una pista ciclabile ha dei costi irrisori, mettere delle rastrelliere ha dei costi irrisori, limitare l'utilizzo della macchina... È un sistema antieconomico. Le faccio un esempio banale: noi abbiamo la tassazione più alta sul carburante. Si immagini in uno Stato che basa molta della sua tassazione sul consumo di un carburante, se ci può essere una svolta nel miglioramento della vita del ciclista, cioè, e come primo effetto è quello di ridurre l'uso del carburante. Come dice il buon senso coatto, non ce magna nessuno. Esattamente, questo è l'aspetto brutale. L'aspetto invece drammatico è che tutto questo poi si riflette in un aumento di costi sociali notevoli. Il bello dell'iniziativa francese Conti alla mano è che c'è un risparmio di circa 30 volte l'impiego di denaro che utilizzeranno, perché la spesa più grande che sosteniamo è proprio quella nel numero di incidenti stradali, interventi su questi incidenti, manutenzione delle strade e tutto quello che è legato al mantenimento di questa situazione attuale. Quindi il risparmio non viene considerato come una fonte di reddito. Lei pensi l'usura minore, diciamo, dello spazio urbano, se ci fossero molte più biciclette che automobili, in effetti sarebbe inimmaginabile. Sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno, salve. Vorrei dire solo due cose semplici, che secondo me le bici dovrebbero essere identificabili come le automobili, come le motociclette, come i motorini. Targate, quindi. Esatto, sì. Sarebbe anche più difficile, renderebbe la vita più difficile a chi le ruba a man bassa oramai. Ma a parte rubare, io abito nei colli qua a Padova. Durante la domenica è impossibile viaggiare, perché viaggio di 5-6, non rispettano i semafori. Ho visto qualche incidente perché qualche ciclista è passato a rosso e qualcuno per evitare è andato a sbattere un'altra parte. Chiaramente si sono volatilizzati. Quindi devono essere identificabili. E devo magari pagare una piccola assicurazione, come farò io, perché anch'io ho la bici. però non trovo giusto che al giorno d'oggi ci sia magari persone anche di una certa età che non conoscono il codice stradale, che fanno di tutto. Che poi l'Umarè, quando la domenica va in bicicletta, si traveste da ciclista e si prende la bomba per andare ancora come avesse 20 anni, è chiaro che poi sì. Comunque lei sta aprendo un'altra querelle che abbiamo già toccato in altri campi. Oggi non è che non le voglio rispondere, ma allarghiamo un po' troppo il campo. Lei giustamente dice, chi va in automobile vuole anche avere il diritto di circolare tranquillamente la domenica. Molte volte i cicloturisti non rispetto, può essere anche vero questo, ognuno ha il suo punto di vista, però fermiamoci al problema legato alle città oggi. Mario, buongiorno. Sono Mario, io sono un farmacista imprenditore che praticamente vado avanti e indietro dalla mia farmacia in bicicletta, ho 7 dipendenti e quello che potrebbe essere proprio l'incentivo è dare la possibilità anche ai miei dipendenti di poter usufruire la bicicletta. Io lo faccio perché mi fa bene anche come attività cardiorespiratoria, mi dà veramente benessere, faccio 32 chilometri al giorno. Sì, ma lei sta in una città in cui se lo può permettere? Le domande. Ma sì, Bergamo ha un'ottima infrastruttura del tipo di piste ciclabili, è anche lei pericolosa perché ci sono anche dei viali dove si viaggia anche abbastanza velocemente, però io ho per esempio una dipendente che abita a 800 metri e viene con la macchina, in questo senso sarebbe importante sì dare incentivo ma anche controllare, cioè il fatto stesso che se una prende l'incentivo però poi dice io continuo a venire in macchina, e questa sarebbe la cosa più deleteria, cioè di tutto questo. Ha detto una cosa intelligente, poi la vorrei chiedere a Giuseppe Piras, visto che lei conosce bene la situazione francese. Siamo italiani è un termine che molte volte è autodispregiativo, ma come si controlla che poi il dipendente veramente prenda la bicicletta, non prenda soltanto l'incentivo? Ma ci sono tanti sistemi, ormai qualsiasi tipo di GPS può dare un'indicazione del percorso fatto, la velocità media, quindi si capisce se è stato fatto con un motorino, se è stato fatto con un mezzo pubblico, quindi una qualsiasi applicazione può essere sviluppata a livello nazionale, ma può essere sviluppata anche a livello aziendale. Figuriamoci i sindacati, soprattutto nelle aziende, quanto sarebbero contenti del tracciamento via GPS del dipendente. È molto difficile in Italia, mi rendo conto. Sì, però insomma credo che ci abbiano pensato anche in Francia, non siano così sprovveduti da affidarsi al caso, insomma. Ecco il punto, guardi, adesso il punto che volevo toccare finalmente. Mario da Roma, poi dopo ci fermiamo un istante, mi dirà qual è la vera grande opposizione rispetto a tutto quello che stiamo dicendo questa mattina. Mario. Eccoci. Allora, praticamente nessuno ha fatto conto di quanto costano le calorie che si devono utilizzare per usare la bicicletta. Specialmente se in una città come Roma ci sono parecchie salite e discese, questo comporta, oltre a tutti i problemi che sono stati evidenziati poco dianzi, comporta una spesa che va ben oltre quei 25 centesimi che la Francia darebbe a coloro che utilizzano la bicicletta. Quindi ritengo assolutamente anacronistica questo tipo di proposta, che deve rimanere semplicemente confinata alla volontà di chi in determinate situazioni ottimali, quindi parlo clima buono, non c'è la pioggia, non ci sono rischi che poi costerebbero per la collettività per danni accaduti per incidenti o cose di questo genere, ritengo una proposta secondo me da radical chic, cioè chi abita in centro a Campo dei Fiori prende la bici col cestino, va a comprarsi le orchidee, esattamente cose di questo genere, che poi voi state dicendo poi cose, la lascia dentro il palazzo cinquecentesco nel suo superattico e poi lì magari non c'è bisogno di arrivare a questi livelli diciamo di ricchezza e di benessere, però consideri anche che molta gente è costretta anche a lavorare portandosi appresso attrezzature di lavoro, quindi vedo del tutto proprio poco praticabile un discorso del genere. Mi scusi, ma io accetto, ritengo che da un punto di vista di calorie consumate sia una cosa che non conviene. Le spiego un'ultima cosa. Io dipendevo da una ASL e ci davano il rimborso chilometrico, 1000 lire a chilometro, se utilizzavamo la macchina, 50 lire se andavamo a piedi. Bene, era molto più dispendioso andare a piedi in termini di consumo calorico, consumo delle scarpe e tutte queste cose, e avrebbe, a mio avviso... A lei ha fatto anche uno studio di quanto consumava di suola di scarpe? Esatto, di scarpe, anche di usura fisica, certo. Perché comunque sia, quando lei deve andare a piedi, questo stava su tutti i rimborsi spese del pubblico, lei li può tranquillamente vedere negli anni 90. Sì, ma io mi rendo conto, un sacco. Ecco, cioè di fesserie se ne sono sempre fatte una marea qui in Italia. Lei metta il traspirodor per i piedi, perché i piedi saranno sudati quando arriva il lavoro, deve mettersi la polverina, deodorante per la scelta, camicie che rimangono un po' pezzate, fatica, usura dell'epidermide, perché stando al sole naturalmente si invecchia prima, caduta dei capelli, che probabilmente se le mettono un cappellino se piove. Certo, se mettiamo tutte queste voci sul conto, è vero, c'è una grande usura andare a piedi, però a volte fa anche bene. A tra un istante. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile, vi presenta Melog, cronache meridiane. Zero zero ventiquattro, soltanto una battuta. Daniele Iari, rispetto a quest'ultimo ascoltatore, ha fatto un suo algoritmo individuale per misurare l'usura fisica, dice che si consumano le calorie, e calorie hanno un costo. Ovviamente l'ascoltatore, c'è gente che questo costo lo paga iscrivendosi a una palestra e invece andando in bicicletta me lo rimborsa l'azienda. Quindi, giustamente, è vero, sì. Cioè, non ho mai sentito dire uno che considera l'usura della suola delle scarpe, sembra una cosa da Umberto D di anni passati, però evidentemente ancora uno c'è chi ha tempo per fare questo tipo di conteggio. Sentiamo Giacomo. Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Sì, io chiamo da Padova e volevo onestamente rispondere all'ascoltatore No, no, scusa, chiedo a Buttafuoco, è uscito un attimo, mi preoccupavo. Data telefonare. Telefonare. No, fa giustamente, non mi lo chiamo disturbare. No, da disturbarvi. No. Prego, prego, Giacomo. Allora, io chiamo da Padova e volevo rispondere all'ascoltatore che ha chiamato da Padova anche lui prima, che dice che bisognerebbe mettere le targhe alle biciclette perché sono un pericolo per la strada. Io sono uno studente, quindi personalmente a Padova mi muovo molto spesso in bicicletta. E mi fa sorridere sentire un intervento del genere da un padovano quando è stato proposto molto di recente di eliminare le piste ciclabili per fare più parcheggi. Sì, ma la stessa cosa, mi è arrivato un messaggio adesso che a Mestre hanno fatto la stessa cosa, hanno tolto la ZL in centro, riducono il costo dei parcheggi e naturalmente vanno controcorrente, mentre in Francia cercano di incentivare l'uso della bicicletta o di mezzi che non impattino nel malessere generale, nella nostra città invece si cerca di dare il più possibile spazio agli automobilisti. Io, credetemi, non sono un ciclista sfegatato, la mia bici sta nel salottino del mio studio da almeno un mese e mezzo, perché non faccio in tempo a prenderla, e quando c'ho tempo libero non c'ho voglia di portarla giù per le scale, quindi non è che sono un fissato alla bicicletta, però mi fa sorridere l'idea che noi andiamo sempre controcorrente. Carlo, buongiorno. Nicoletti, buongiorno. La mia esperienza, mio figlio vive e studia a Londra, lavora in una catena dove fanno il sushi e loro danno un piccolo prestito, una sorta di mutuo ai ragazzi che comprano la bicicletta nuova e vanno a lavorare in bicicletta. Londra non è semplice come traffico, mi sembra, no? Certo. Direi proprio di no. Quindi, tra l'altro, ho visto dei progetti di una pista ciclabile sul Tamigi galleggiante, una cosa meravigliosa. La verità è un'altra, la verità, come ha detto quel dipendente dell'ASL di Roma, è che noi siamo indietro 100 anni, perché è la città in Europa che ha le piste ciclabili più lunghe è Vienna, e a Vienna fa un freddo cane e piove spesso. Quindi bisogna avere un po' di voglia di muoversi. D'inverno è tutto ghiacciato, poi tra l'altro in Olanda i bambini vanno a scuola con il trabattello attaccato dietro alla bicicletta della mamma, e in Olanda fa freddo. È solo una questione di cultura, noi siamo indietro di 100 anni, poche storie, perché io vivo a Milano, a Milano, a parte le zone centrali, si può andare in bicicletta, non è così drammatica la situazione. Io penso che sia quel complesso che la psichiatria chiama il complesso del pezzalculismo, cioè abbiamo una tal paura delle nostre pezzalcule, cioè delle nostri retaggi passati in cui i nostri padri, i nonni andavano in bicicletta, ci vergogniamo, quindi non vorremmo mai tornare a quell'epoca lì, come quelli che dicono che lavorare la terra è una cosa disdicevole da radical chic. Andare in bicicletta da radical chic, come dire, mi vergogno di mio padre e mio nonno che andavano magari a lavorare con la borsetta, con la bottiglia che usciva fuori e il panino dentro, quindi mai più tornerò a quei tempi, quindi la bicicletta da radical chic. È d'accordo Giuseppe Piras? Ma assolutamente no, tra l'altro è un mezzo... No, è d'accordo che esista questa sorta di pregiudizio? Sì, può essere che sia un pregiudizio. In realtà la moda adesso sta cavalcando tantissimo la bicicletta in senso lato. Infatti mai viste le biciclette così belle come adesso? Sono degli strumenti belle, meravigliosi. L'abbigliamento che viene fatto apposta, nelle pubblicità, nei negozi, la bicicletta è diventata ormai l'ornamento di qualsiasi vetrina. Questo sicuramente serve molto. Chiaro che chi poi è un po' più attento alla moda, più attento al cambiamento, forse un po' più radical chic lo è, può essere, però come dire, gli operai, ancora quei pochi che ci sono, spesso si muovono in bicicletta per necessità. Bisognerebbe dare la possibilità a tutti. Beh, c'è una nuova generazione, almeno nelle grandi città, di ciclisti sono gli immigrati che scelgono le biciclette. Molte volte le vediamo riverniciate a mano e quindi la provenienza è un po' sospetta, però devo dire qualcosa si sta muovendo. Grazie, alla prossima.